24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:22 minuti, eccoci cari ascoltatori, riparte una settimana di 24 mattino anche su Facebook. 24 mattino ci trovate così. Di che parliamo nel nostro sondaggio che già potete votare sul sito di radio24.it. Beh, parliamo di politica, di questo tentativo da parte di alcuni dell'opposizione di lanciare questa nuova strategia, quella di bloccare i lavori del Parlamento come strategia di opposizione, proprio impedire i lavori del Parlamento per paralizzare il luogo deputato a fare le leggi. Che ne pensate? Una strategia che vi convince, insomma, in una situazione politica davvero di stallo e dir poco e di confusione, dico io. Allora, votate su Radio24.it, questo è il tema del nostro sondaggio. Avremo ospite anche alle 8:20 nell'intervista il governatore del Veneto Luca Zaia. Ed ora da cosa iniziamo? Dai giornali in edicola. In primo piano. Le scelte in questo lunedì 28 febbraio da parte dei quotidiani sono la Libia, la vicenda drammatica, l'epilogo di Yara Gambirasio trovata morta. E questi sono i due grandi temi sui giornali. Crisi libica, caos o rinascita? Così si interroga il Sole 24 Ore in prima pagina. Mentre Repubblica, l'ONU, processate Gheddafi. Per la stampa, Libia, migliaia di profughi verso i confini. Sceglie la vicenda di Yara il Corriere. Yara ha cercato di difendersi, questo è il titolo di apertura. Yara uccisa a coltellate, questo per il Messaggero. Mentre Yara, l'orco è tra noi, questo è il quotidiano nazionale ed è la frase detta dal parroco durante la messa ieri. L'unità sceglie, la scuola è per tutti, la vicenda della polemica politica sulle dichiarazioni sulla scuola di Berlusconi. Mentre il giornale, la Boccassini è in bolletta, ha speso tutto per rubi, ora dice non ci sono soldi per intercettare i narcotrafficanti. Da cosa voglio partire però come segnalazione? La prima segnalazione è a pagina 27 di Repubblica. Il social shopping conquista il web, metà prezzo se acquisti in gruppo. Pare la nuova tendenza che parte da questa azienda americana Groupon. Funziona così, racconta Angelo Acquaro in prima pagina di Repubblica. Che idea vi fareste di un'azienda che assume un attore per bighellonare per gli uffici in tutù senza dire una parola per una settimana intera? Beh, quell'azienda viene considerata da Forbes la compagnia con la crescita più veloce della storia, un sito passato da 400 a 50 milioni di clienti al giorno in 2 anni. È un negozio virtuale, si chiama Groupon, il nuovo Facebook, l'ennesima e fortunata applicazione del modello community. Solo che invece di mettere in contatto gli amici, che cosa fa? Fa dialogare chi compra e chi vende. Funziona così. Ogni giorno il sito propone un'offerta, che ne so, una settimana in beauty farm, un menù completo al ristorante, un corso di lingua, una poltrona in prima fila al cinema, un chilo di pasta, qualsiasi cosa. Un'offerta scontatissima, cioè si paga dal 50 al 60 al 70% in meno rispetto al prezzo normale, sempre che a comprare siate in molti. E quindi il consumatore ci guadagna del risparmio, chi vende ci guadagna del fatto che vende a tante persone. Se siete in molti a acquistare la stessa cosa, la otterrete con un grande sconto e chi la vende è contenta perché ne vende tante quantità. Un'idea definita non semplice ma quasi stupida dall'inventore trentenne di questo successo, un ex musicista di Chicago che ora svetta su un impero che sta per sbarcare in borsa, è presente in 35 paesi del mondo, anche in Italia, in 100 città italiane, e sta diventando un fenomeno di massa incredibile. Groupon, che ne so, le ultime offerte in Italia, per esempio, racconta Repubblica, offrivano 5 massaggi anticellulite, 2 notti in camera doppia in un posto a Bormio, una cena per 2 in un ristorante indiano, 1 chilo di pasta fatta a mano da un pastificio. Basta che la comprate in tanti e la potete comprare con uno sconto del 60-70%. Ed è questo il nuovo fenomeno di massa, Groupon, il social shopping che viene raccontato oggi da Repubblica. Sono partito da qui per fermarmi con la pubblicità e poi ripartiamo dalla Libia, da Yara, dalla politica nella lettura dei giornali. In primo piano. Sono diversi quotidiani che oggi mettono nelle prime pagine, qualcuno anche in titolo d'apertura, come ieri, la vicenda con l'epilogo drammatico finale Yara Gambirasio, trovata 3 mesi dopo la scomparsa, morta in un campo non lontano da casa. Ci sono molti più particolari oggi sui giornali. Per esempio il Corriere della Sera: uccisa subito dopo la scomparsa, quel ciuffo d'erba stretto nella mano. Perché uno dei misteri, uno dei tanti misteri evidentemente di questa storia è stata uccisa lì, oppure è stato qualcuno ha trasportato il cadavere nei giorni scorsi in un campo che era già stato controllato, era già stato setacciato e nulla era stato trovato subito dopo la scomparsa. E beh, per il Corriere della Sera, con Claudio Del Frate a pagina 3, la cronaca sulla quale la dinamica sulla quale si stanno orientando chi indaga è questa: Yara è morta per aver resistito a un'aggressione probabilmente di natura sessuale, è stata uccisa a coltellate poche ore se non pochi minuti dopo l'uscita dalla palestra di Brembate, quasi certamente nelle vicinanze del campo di via Bedeschi dove sabato è stata rinvenuta. Insomma, è uscita dalla palestra alle 18.30 venerdì 26 novembre, il tempo di scambiarsi un sms con l'amica Martina, la quale dà appuntamento per una gara di ginnastica la domenica. Poi il copione prevede probabilmente questo: il suo telefonino aggancia l'antenna di Mapello, un paese accanto a Brembate ma fuori strada rispetto al percorso abituale verso casa, e verso Mapello infatti si indirizzeranno i cani che l'hanno cercata. L'idea è che si stanno facendo in questo momento gli investigatori, che abbia resistito a un primo tempo a una violenza, ma questo abbia fatto scattare la furia dell'omicida che ha inferito con alcune coltellate. E quel ciuffo d'erba proprio nelle mani di Yara sarebbe la dimostrazione di un tentativo, insomma, di un'estrema difesa. Anche in prima pagina di Repubblica: Yara cercò di difendersi, 6 coltellate sul corpo. Beh, non è facile neanche raccontare questi titoli, raccontare questi articoli di cronaca, quando insomma vedrete su tutte le prime pagine le foto di una Yara Gambirasio sorridente, no? Con quel suo apparecchio per i denti, che è stato drammaticamente uno dei modi per riconoscerla all'inizio. Da parte di chi? Beh, da parte anche di chi l'ha trovata, Massimo, 40 anni, sulla Stampa, pagina 3, viene raccontato il suo shock. Era andato lì per coltivare uno dei suoi hobby, vale a dire quello di gli aeromodellini. A un certo punto in quel campo un suo aeromodellino cade, lui va a recuperarlo e si ritrova proprio di fronte a questa scena scioccante. Non ho capito che si trattava di lei, ricorda, il pensiero non mi ha sfiorato, anch'io dei figli non volevo neppure prendere in considerazione l'idea che potesse trattarsi di quella bambina. L'ha chiamata subito alla polizia e poi è stato allontanato con queste parole: non ci sono parole per descrivere l'orrore, spero solo di dimenticare quello che ho visto. Chi invece non viene allontanato, e c'è il solito, in questa storia si è sempre raccontato in questi mesi come la comunità di Brembate, come tutti abbiano mantenuto un profilo di dignità altissima, a cominciare dal sindaco, per affrontare una vicenda così drammatica. Chi invece non viene allontanato inspiegabilmente è l'ennesimo pellegrinaggio che c'è stato, testimoniato ieri dal Corriere della Sera, di persone che sono andate lì, un pellegrinaggio, un via vai continuo. C'è anche una foto su questa strada: chi lo fa per curiosità, chi porta il bambino di 10 anni e indica, vedi, lì Yara è volata in cielo, chi per cordoglio, chi per curiosità e basta, chi per capire, chissà cosa c'è da capire per andare a vedere un campo in provincia di Bergamo, chissà cosa si deve capire a guardare dell'erba alta in un campo in provincia di Bergamo. Però c'è stato il via vai, il pellegrinaggio di persone comuni che sono andate lì. E poi racconta Paolo Berizzi su Repubblica l'urlo della madre: ci dicevate che era viva. Questo è un altro aspetto molto molto struggente, perché i genitori, anche loro, che hanno mantenuto un profilo di dignità altissimo in tutti questi mesi, hanno sempre creduto anche in quello che gli investigatori dicevano, cioè la speranza di trovare Yara viva. E allora Paolo Berizzi, in prima pagina di Repubblica, inizia questo articolo così: scusi, ma perché ci avete detto che Yara era viva? L'Alfa Romeo del questore di Bergamo, Vincenzo Ricciardi, ancora al motore acceso all'angolo tra Piazzale Gorini e via Mangiagalli a Milano. un luogo che nella toponomastica milanese vuol dire morte, lì di fronte c'è l'obitorio. E allora ecco lo sfogo, arriva da una donna piegata da 3 mesi di attesa, di speranze andate in fumo, che al ritorno verso Bergamo accuserà anche un momento di cedimento, ma che conserva intatta la lucidità e la razionalità. La donna va dritta al punto. Perché in questi mesi ci avete detto che Yara era viva? Sulla base di che cosa? Chiede la madre al questore. Sono gli stessi interrogativi che in queste ore si pongono in molti, ma magari in silenzio, perché chi ha seguito da vicino il giallo di Brembate ora non può non ricordare che a tenere viva la speranza di trovare Yara ancora in vita, anzi persino ad accenderla, erano stati proprio gli stessi investigatori. In una conferenza stampa l'11 dicembre 2010, il capo della procura di Bergamo pronunciò queste parole: polizia e carabinieri stanno lavorando concretamente nella speranza di riportare Yara viva alla sua famiglia. Viva? Si spiegò, viva, perché non ci sono elementi seri, fortunatamente, di senso contrario. E poi arrivò anche il capo dello SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, Caldarozzi. Dichiarò: la ragazza è viva e la troveremo. Lo stesso questore Ricciardi dichiarò: basta solo un pizzico di fortuna. Ora, insomma, tutti questi interrogativi chiaramente suscitano anche un po' di rabbia. Vabbè, lasciamo questa vicenda di cronaca. L'altro tema che trovate sviluppato sui giornali è ancora la Libia. Io voglio segnalarvi che il ministro degli esteri Frattini ha fatto un'intervista al Messaggero: disposti all'uso della forza, ma serve l'impegno corale di tutti. Questo a pagina 4, un Frattini che dice: arriva il nostro Gheddafi, se ne vada, non in ritardo, ma perché non spetta la comunità internazionale, a Bruxelles, a Washington, decidere chi deve andarsene o chi deve restare. Arriva quando abbiamo visto Gheddafi sparare sul suo popolo. L'altra vicenda interessante è quella di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, vale a dire di un Gheddafi che probabilmente ora potrà essere processato alla Corte Penale Internazionale. Avevo ospite la settimana scorsa il giudice Cuno Tarfus, italiano, alla Corte dell'AIA, che ci ha spiegato come si poteva arrivare a questa procedura con una risoluzione dell'ONU. La risoluzione dell'ONU è arrivata in fine settimana. La giustizia del mondo, così Antonio Cassese, che è un giurista internazionale, in prima pagina di Repubblica, racconta proprio di come le pressioni europee abbiano vinto e adesso serve una sentenza rapida. 3 cose sorprendono piacevolmente nella decisione adottata sabato notte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, scrive Cassese: la rapidità inconsueta, la sua approvazione all'unanimità e l'ampio ventaglio di sanzioni previste contro Gheddafi e i suoi accoliti. Tra le varie sanzioni previste emerge la decisione di deferire alla Corte Penale Internazionale Gheddafi e tutti coloro che con lui abbiano commesso o commettano crimini. Questa decisione ha molto sorpreso, perché era nota la forte opposizione di Stati Uniti, Cina, Russia alla Corte Penale. In questo caso però hanno giocato la vigorosa e risoluta pressione a favore della Corte di Inghilterra, Francia e Germania. E anche l'atteggiamento dell'ambasciatore libico a New York, che dopo essersi dissociato dal dittatore ha esplicitamente auspicato il ricorso alla Corte dell'AIA. Dunque, questa risoluzione, che prevede all'unanimità la possibilità di deferire per crimini contro l'umanità Gheddafi all'AIA, è arrivata. Ora ci si può muovere. Certo, la situazione però, raccontano i vari inviati, rimane ancora abbastanza caotica. A Bengasi si è formato un nuovo governo provvisorio, mentre Gheddafi viene dato per sempre asserragliato nel suo bunker a Tripoli. Sarà forse la settimana decisiva. Il Sole 24 Ore apre su questo e si concentra su un tema interessante per le nostre aziende: crisi libica, caos o rinascita? Questo è l'interrogativo che si pone in prima pagina al Sole, perché sono moltissime le aziende italiane che lavorano con la Libia. E allora queste imprese ora si interrogano su quale sarà il futuro del proprio export con quel paese, soprattutto nello stretto immediato. Ebbene, ci sono già le stime. Quanto pesano, quanto potrebbero costare in termini di export mancato queste situazioni caotiche in Libia? 8 miliardi di euro. Questo racconta il Sole 24 Ore con Micaela Cappellini a pagina 3. È una stima, ovviamente. Si tratta di che cosa? Un dato non ufficiale, ma che mette insieme una serie di considerazioni avanzate dalle associazioni di settore. Per esempio l'ANIE, che riunisce l'industria elettrotecnica ed elettronica italiana, quest'anno fa sapere che l'export verso la regione nordafricana perderà 1,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni solo per i comparti dell'elettrotecnica. E allora, mettendo insieme le varie previsioni, gli stimi degli studi dei vari settori, per esempio la chimica, Federchimica teme un calo dell'export del 50%, le macchine utensili si teme un calo dell'export del 70%, Lance, che raggruppa i costruttori edili, non fa pronostici, ma certo ricorda che al dicembre 2009 il portafoglio lavori nelle mani delle imprese italiane ammontava a 7 miliardi di euro, da allora non può che essere cresciuto, però chissà se verranno confermate tutte queste commesse. Insomma, il Sole 24 Ore si interroga sul caos in Libia e l'impatto sull'economia, sulle imprese italiane. E poi c'è la politica italiana, stranamente un po' in sordina in questo lunedì. In genere qualche intervista anima un po' il dibattito. Questa volta di intervista c'è solo Dario Franceschini del Partito Democratico su Repubblica, che dice: dobbiamo andare in piazza. Ciò che campeggia nel dibattito è la questione della scuola. La scuola, con le parole di Berlusconi, che sabato ha detto qualcosa contro la scuola pubblica, suscitando il classico codazzo di polemiche e suscitando la controreazione, anche questo un gran classicone di Berlusconi, che dice: le mie parole sono state travisate dalla sinistra. E allora che cosa ha detto Berlusconi sabato? Questo: crediamo nell'individuo, riteniamo che ciascuno debba avere il diritto di poter educare i figli liberamente. Liberamente vuol dire non essere costretto a mandarli in una scuola di Stato dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare dei principi che sono il contrario di quelli che i genitori vogliono inculcare ai loro figli, educandoli nell'ambito della loro famiglia. Subito Berlusconi stronca la scuola pubblica, oggi Bersani dice si dimetta e con lui si dimetta anche la Gelmini, Franceschini dice andiamo in piazza, Berlusconi che dice mi hanno travisato la sinistra le mie parole. Insomma, è la campagna elettorale con questi toni che si avvicina. Chi lo sa, approfondiremo dopo il traffico. In primo piano. E allora, scuola pubblica, bufera su Berlusconi, questo da Repubblica, il PD schiaffo ai prof, la Gelmini si dimetta. Le parole sono quelle che ho detto prima, Per il Corriere, scuola pubblica, Berlusconi accusa, la sinistra travisa le mie parole. E infatti Marco Galluzzo racconta quel meccanismo che va avanti da alcuni anni, secondo il quale Berlusconi crea un caso con le sue parole, poi viene attaccato, sente il dovere di precisare il giorno dopo, spiegando meglio il suo pensiero, attaccando a sua volta chi in malafede avrebbe distorto il senso delle sue dichiarazioni. Da quant'è che va avanti così? 15 anni più o meno, e la politica italiana si incaponisce così. La nuova piazza per l'Unità, che mette in prima pagina questa vicenda, la nuova piazza è questa: il 12 marzo in difesa della scuola pubblica. Dario Franceschini, che tra l'altro in quell'intervista di Repubblica lo conferma, cioè tutti in piazza il 12 marzo in difesa della scuola pubblica. Tra l'altro Berlusconi ieri nel dire travisano le mie parole eccetera, ha lanciato un altro fronte in realtà di polemica, che per ora è rimasto un po' sotto traccia, cioè mandando un messaggio a una manifestazione del movimento di Magdi Allam. Ha detto anche questo: dobbiamo incarnare una nuova battaglia contro la sinistra che non difende la sacralità della vita, inneggia alle coppie di fatto e cerca di imporre la cultura della morte e dell'eutanasia. Insomma, questa è l'altra vicenda, e subito si va a pensare al dibattito che c'è sul testamento biologico, insomma, ma anche a pensare, e toni sono da campagna elettorale, tanto che Ugo Magri sulla Stampa a pagina 14 la racconta proprio così: Silvio ha scelto la guerra totale, loro mi delegittimano e io ribatto colpo su colpo, vediamo chi vince. Questo sarebbe l'atteggiamento di Berlusconi, gioca d'anticipo, imbocca una strada che può portare dove non si sa. Visto che non trova sponde né politiche né istituzionali, Silvio sceglie la guerra totale. su questi temi. Uno è la scuola, le coppie di fatto, ora è tornato anche con Magri Cristiano Allam la questione delle coppie di fatto, poi la cultura della morte e l'eutanasia, c'è tutto un dibattito sul testamento biologico che proprio in questi giorni verrà poi a compimento in Parlamento, tanto che per Repubblica in prima pagina c'è un commento di Nadia Urbinati: il Cavaliere è pronto a tutto per l'appoggio della Chiesa. Intelligentemente, infatti, anche alla Stampa intervista con Giacomo Galeazzi a pagina 14 il vescovo Negri. Il vescovo Luigi Negri è considerato, definito così, vescovo Ciellino di San Marino Montefeltro. La moralità del premier conta meno della famiglia. Così il vescovo Negri dice riguardo alle vicende personali di Berlusconi. Se esistono reati tocca la legge stabilirlo, è inammissibile condannare a priori, ma un politico si giudica sul vantaggio del bene comune, cioè del popolo. E allora io dico che le cose che fanno male alla società sono la legislazione laicista, la moralità teorizzata e praticata da quanti ci inondano di chiacchiere sulla rilevanza pubblica di taluni comportamenti privati. Così il vescovo Negri, personaggio anche di spicco della Conferenza Episcopale Italiana. Riguardo alla scuola, l'altro tema interessante lo troviamo sul Sole 24 Ore, cioè un tema che fuoriesce dalle polemiche. Arrivano i super ispettori che daranno i voti ai prof. A pagina 9, il sistema di valutazione, il giudizio rispetterà i criteri della riforma Brunetta. Claudio Tucci racconta di come metterà il turbo tra poco il sistema nazionale di valutazione, che avrà il compito di dare le pagelle a insegnanti e docenti. Ciò che ha voluto il ministro Gelmini, che ha ridisegnato l'impalcatura del sistema attraverso tre soggetti: gli ispettori ministeriali, l'Indire e l'Invalsi. Queste sono le sperimentazioni dunque sulle pagelle ai prof, mentre stanno un po' arrancando quelle sperimentazioni che erano state segnalate, noi ne avevamo anche parlato, e cioè i progetti sperimentali annunciati per premiare istituti e professori più meritevoli, perché su questo gli istituti e i professori si sono un po' risentiti e sono pochi quelli che hanno aderito a questo sistema. Troviamo qualche segnalazione di cronaca, sono queste. Intanto la troviamo a pagina 25 del Corriere: continua la vicenda di Affittopoli, è stata definita così, o comunque di case, di patrimonio di enti che viene dato a persone, e bisogna capire, persone pubbliche, anche persone importanti, bisogna capire se in modo tutto trasparente. Ecco qui il nuovo fronte: il portavoce del ministro e il direttore di rete, i nuovi affitti low cost. Questa è la vicenda che riguarda Roma, le case dell'Enasarco, che saranno vagliate dalla procura con i rispettivi inquilini. I nomi nuovi che vengono dati dal Corriere della Sera, pagina 25, sono Nicola Procaccini, giornalista, portavoce del ministro delle politiche giovanili Giorgia Meloni, che è un inquilino in una palazzina del 600 vicino alla Fontana di Trevi, che ospita in cortile una fontana del Bernini. Vivo in quell'appartamento da 5 anni, dice, paga 1617 euro al mese per 80 metri quadri con vista sul barocco romano. Non intende invece replicare Massimo Liofredi, direttore di Rai 2, inquilino in un alloggio in Enasarco alla Farnesina in cui vivono i genitori, 807 euro per 94 metri quadri. Beh, insomma, sembra abbastanza poco, 807 euro al mese per 94 metri quadri. Affittuari a canone ridotto sono dati rispetto al mercato, sono anche Mario Palombo, ex AN, già membro della commissione Mitrokhin, Carlotta Tarelli, figlia del segretario della funzione pubblica della CISL, Rino Tarelli. Insomma, qualche nome ogni tanto viene dato qua e là. Guardo Peter, io non ho capito quando devo chiudere, ma forse tra poco, tra 30 secondi. Allora che dire? In questi 30 secondi non resta che leggere la Gazzetta dello Sport, ahimè. Inter, il bacio di Snyder a 2 punti dalla capolista, che è il Milan, e che gioca stasera. Milan-Napoli, grandissima sfida, alle 20.30, 20.45, anzi a San Siro. Bene, l'Inter ieri ha vinto, e questa è la notizia della Serie A più importante, la vittoria nel posticipo ieri 2-0. Inter, il bacio di Snyder, c'è la foto di Snyder che bacia l'anello. Bene, ma stasera c'è la partita più importante, Milan-Napoli. Ci fermiamo, il GR 24 mattino, l'intervista. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:20. Saluto il governatore del Veneto, Luca Zaia, per la nostra intervista di oggi. Governatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, dovessero arrivare questi profughi dalla Libia che attendiamo tutti, non si capisce se e quando arriveranno, il Veneto è pronto ad accoglierli? Perché lei ha anche battibeccato su questo col governatore della Sicilia nei giorni scorsi. Spieghiamo innanzitutto che il battibecco è dato da un'infelice uscita del collega Lombardo, che ha detto che tutti gli immigrati, tutti gli sfollati, tutti i profughi dovrebbero essere inviati a Veneto e Lombardia perché lì c'è lavoro. Allora, noi conosciamo la disoccupazione, abbiamo 130.000 disoccupati in questo momento, penso che la battuta sia comunque infelice. Da parte nostra in questo momento non siamo ancora in grado di dare risposte, nel senso che so che si sta facendo un censimento a livello nazionale e immagino che comunque se si presentasse il problema reale del vero esodo biblico si inizierà da sud verso nord, anche per un fatto logistico e di logica. Da sud verso nord, però perché qualcuno dice l'Europa un po' ci abbandona, noi siamo il sud dell'Europa, ci scaricano il problema sul sud, non è un discorso equivalente dire scarichiamo il problema sul sud dell'Italia prima che sul nord? No, guardi, il problema europeo è un problema cogente, reale. Noi abbiamo la fortuna di avere un uomo giusto al posto giusto, che è il ministro Maroni. Io ho vissuto i dibattiti in Europa da ministro, le posso garantire che tavoli con 27 persone, dove ognuno dice la sua, sono tavoli inconcludenti. L'Europa ha una buona occasione per dimostrare di esistere, se c'è che batta un colpo. La partita nord-sud non la inquadrerei come la partita Europa-Italia. La verità è che logisticamente non ha nessun senso se arrivassero 10 sfollati caricarli in un aereo, portarli in Val d'Aosta per poi riportarli a casa. Penso che noi dobbiamo anche pensare a dei criteri di praticità, di logistica e di economicità. Quello che possiamo scongiurare, lei l'ha già fatto, è l'infelice uscita, non so come la vuole lei qualificare, del suo assessore, l'assessore ai flussi migratori Stival, che ha detto accogliamoli con il Mitra. Ma lei ha già detto, come definire, una cazzata? Cosa ha detto l'assessore? Ma guardi, io conosco bene Stival da una vita, chi lo conosce sa benissimo che quello non era l'intenzione, tant'è vero che poi vedendo direttamente De Visu questa registrazione l'uscita non è proprio stata in questo senso. C'è qualcuno che in video in questo talk show dice ma la Grecia e la Spagna non hanno questi problemi e lui risponde, lo si vede, dice perché usano il Mitra. Da qui poi è stata fatta tutta una come al solito una polemica, però diciamo con chiarezza, la mia idea, la idea della Lega non è sicuramente quella di sparare a delle donne e dei bambini che scappano dalla fame e dalla morte sicura. Questo ci mancherebbe. Senta, un'ultima cosa su questo, però vorrei capire. Prego. Cioè, state vedendo un censimento europeo a livello nazionale, ma il Veneto ha dei posti? Nel caso vi chiedessero ci sono dei posti, ha già una risposta a riguardo? Guardi, questo spetta alle prefetture. La verità è che nei censimenti si dà priorità alle caserme dismesse fruibili. Il Veneto non ce le ha, di fatto queste strutture non ci sono, perché forse anche grazie all'efficienza noi quando abbiamo avuto le caserme dismesse non più utilizzabili le abbiamo assolutamente valorizzate, i comuni sono stati rapidissimi nel valorizzarle, che so, urbanisticamente. Nella mia città, Treviso, nella mia provincia, se n'è fatta un'università in una grande caserma e questa è la partita, per cui immagino dalle informazioni che ho che si inizi da strutture pubbliche dismesse fruibili. Ce ne sono poche. L'altra vicenda sulla quale volevo fare un paio di domande è la questione dell'alluvione, che insomma è un po' dimenticata, ma giustamente insomma si è ricostruito, però è un problema ancora che c'è. Ma lei di recente aveva detto al Sole 24 Ore che serviranno, dopo i 300 milioni arrivati, 2 miliardi in opere. È questa la cifra? Cioè, a che cosa pensava? Allora, mi lasci ringraziare il Sole e Radio 24 per il grande aiuto che ci avete dato, e questo lo voglio dire anche agli ascoltatori, perché comunque siete stati sempre a fianco ai 550.000 alluvionati del Veneto e da tutti i veneti. Dall'altro devo dire che noi abbiamo 1 miliardo di euro di danni diretti a imprese, ricordiamoci che sono stati colpiti i distretti industriali, il cuore dell'imprenditoria veneta, imprese e famiglie, e poi 2,5 miliardi che si sommano per la messa in sicurezza dei territori. Noi abbiamo 30 argini che non esistono più, abbiamo casse d'espansione da realizzare, per cui se piovesse come il 31 ottobre, 1 novembre del 2010 avremmo un'alluvione ancora più devastante. E che succede però? Glieli chiede lei a Tremonti? Ma guardi, io vedo il ministro Tremonti pressoché direttamente o indirettamente riesco a incrociarlo quasi tutte le settimane. E noi continuiamo a chiedere, nel senso che restiamo fiduciosi, il ministro è assolutamente sul pezzo, conosce il problema. La partita è una partita adesso che diventa ostica, nel senso che noi dobbiamo assolutamente portare a casa risorse per la messa in sicurezza. No, ma quello sì, anche perché lasciare il territorio così, se no appunto c'è il rischio che si riproponga la situazione. Però effettivamente 2 miliardi e mezzo non sono una cifra, non sono una bazzeccola, insomma. In questo momento pare che Tremonti non dia una lira a nessuno, anzi un euro, quindi... Beh, direi che dobbiamo ringraziare di aver avuto un ministro così in questo governo, perché comunque ne siamo usciti, mi lasci dire, tonici da una crisi che ha letteralmente gambizzato alcuni paesi, penso al Portogallo, la Spagna, la Grecia ed altri che comunque si stanno accodando. E non faccio il difensore d'ufficio del ministro Tremonti, però mi sento di dire, insomma, che una disponibilità c'è stata da subito, tant'è vero che abbiamo avuto 300 milioni dopo 8 giorni. Noi con altrettanta efficienza li abbiamo erogati agli alluvionati in 47 giorni. Penso che questa sia anche l'alluvione modello come tempi. Sì, sì. Quindi insomma li confida in questi 2 miliardi e mezzo, in qualche modo. No, modo di pensare diversamente, mi perdoni. Cioè, noi abbiamo come interlocutore lo Stato che ogni anno ci sequestra, fra virgolette sequestra, cioè si trattiene ben 17 miliardi di tasse di Veneti che i Veneti per la solidarietà nazionale mandano a Roma e non rivedono più. Il federalismo, ecco, questa la traduciamo così, la soluzione. Beh, il federalismo anche delle catastrofi non sarebbe una cattiva idea. Ad esempio pensare di poter dedicare una parte delle tasse a un fondo di sicurezza per i territori, è altrettanto vero che siano territori desertici che non danno gettito fiscale perché comunque non hanno insediamenti, è vero che accantoneranno di meno, però altrettanto vero che se venisse un'alluvione avrebbero anche meno danni. Territori invece molto industriali come i nostri accantonano di più, ma se viene un'alluvione hanno anche più danni. Hanno anche di più. Il federalismo del rischio di queste tragedie. La ringrazio, governatore, per essere stato con noi. Luca Zaia, governatore del Veneto. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi nel nostro sondaggio parliamo di politica, lo facciamo con questa iniziativa che qualcuno un po' sotto traccia ha fatto emergere, vuol far emergere, a dire: ma non è che è il caso, visto che la situazione di impasse politico, ovviamente sono le opposizioni che dicono questo, alcune delle opposizioni, non è il caso di bloccare i lavori del Parlamento, fare ostruzionismo, fare in modo, come si direbbe nel calcio, fare catenaccio, fare melina, fare perdere tempo, proprio fare in modo di bloccare i lavori del Parlamento fin quando non cade la maggioranza. Fare ostruzionismo in Parlamento per bloccarne i lavori, questa potrebbe essere una strategia di opposizione, come la pensate? Secondo voi è una scelta giusta? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, votate su Radio 24.it, ne parliamo tra pochissimo. 24 mattino. Alle 8:35 minuti parliamo dunque di politica e di questo appello, un appello che è stato fatto da Paolo Flores d'Arcais, firmato per il momento da alcuni tipo Dario Fo, Franca Rame, Andrea Camilleri, Barbara Spinelli, Marco Travaglio, Furio Colombo, ma anche qualche politico, a dire: cara opposizione, sapete cosa dovreste fare? Regolamento alla mano. Fare in modo di bloccare in tutti i modi, in maniera legale ovviamente, i lavori del Parlamento. Paralizzate il Parlamento finché si blocca tutto e fino alla caduta, insomma, del governo Berlusconi. È un'opposizione, una strategia di opposizione che secondo me è una scelta giusta, quello di bloccare con ostruzionismi i lavori del Parlamento. È il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E votate su Radio24.it, dove per ora prevalgono i no con il 60%, cioè non è una strategia giusta. Il Fatto Quotidiano ci ha messo anche tutta la strategia, ecco il manuale di resistenza parlamentare, regolamento alla mano, regolamento che vi risparmio perché insomma sono tecnicismi un po' anche noiosi, che ne so, per esempio continuamente chiedere il numero legale, perché una seduta se non c'è il numero legale non è valida, però se nessuno lo chiede non è che lo si chiede sempre, allora chiedere continuamente il numero legale, oppure fare interrogazioni a bruciapelo ai ministri, questa cosa è consentita dal regolamento, cioè fare in modo di bloccare il Parlamento, perché, scrive Paolo Flores d'Arcais in questo suo appello, qualsiasi provvedimento e con tutti i mezzi che la legge e i regolamenti mette a disposizione, bisogna bloccare in maniera sistematica e permanente il Parlamento. Voglio parlarne con Giorgio Straquadagno, onorevole del Popolo della Libertà, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a loro e agli ascoltatori. Così come il senatore Pancio Pardi, dell'Italia dei Valori, anche lui ben ritrovato e buongiorno senatore. Pardi, ci siamo? Ci siamo. Sì, eccoci. Senta, intanto le chiedo, ma non c'è una contraddizione? Lei l'ha firmato questo appello? Io l'ho firmato per un motivo molto semplice, perché anche se di difficilissima realizzazione, perché la prassi suggerita dal Fatto e da Micromega, Paolo Flores, Camilleri e gli altri, è suggestiva, però è di difficilissima praticabilità, perché prima di tutto presuppone una volontà comune, perfetta, massiccia e indefettibile, che è una cosa che nel Parlamento è difficilissima da realizzare. Però io l'ho sottoscritto non tanto perché pensavo alla sua realizzabilità, quanto perché chiede al Parlamento di prendere atto del fatto che c'è nella società un senso oramai più crescente e dilagante di insopportabilità nei confronti proprio della figura del Presidente del Consiglio. Ha finito le sue giornate assurde, gli ultimi 10 giorni, attaccando la scuola pubblica perché inculca nei giovani studenti ideali e modelli che non corrispondono a quelli che inculcano le famiglie. Già si esprime come un analfabeta, ma poi i concetti sono terribili. Poi il giorno prima aveva detto che la Corte Costituente va riformata perché non gli ubbidisce. Ma che c'entra a bloccare il Parlamento in tutto questo? Cioè? Sostiene di non aver pagato donne e negli ultimi anni non ha fatto altro che pagare donne, molto più profumatamente di quanto facciano gli altri. Col federalismo aumenta le tasse. Ho capito, ma non ho capito cosa c'entra il bloccare. Cioè, uno fa un'opposizione politica, non le va bene Berlusconi, e questa non è una notizia. Uno, non so, gli vota contro, fa le mozioni di sfiducia. Non è sufficiente. No, poi diciamo lui, le mozioni di sfiducia sono passate perché lui si è comprato i parlamentari che gli mancavano e continua. E quindi non capisco perché questo scatto a dire allora blocchiamo tutto, cioè come dire, visto che non ci riusciamo in altri modi, blocchiamo tutto. No, blocchiamo tutto, e questo fa parte dei diritti. Il problema è che da quando il centro-sinistra, una legislatura precedente, ha sostanzialmente impedito l'esercizio dell'ostruzionismo, l'ostruzionismo non è facilissimo. Non è facilissimo. Centro-sinistra nella legislazione, praticamente soprattutto Violante, nella persona di Violante, ha sostanzialmente modificato il regolamento del Senato in una maniera tale che è impossibile l'ostruzionismo. Violante l'aveva fatto pensando che evidentemente avremmo sempre vinto noi per il resto dell'eternità e quindi non si preoccupava oppure, di questa cosa. Oppure uno lo fa perché vuole cercare di oliare i meccanismi per lavorare, perché si dovrebbe, più che ostruire, si dovrebbe lavorare. Ma voglio sentire che ne pensa Straquadagno. Ma quando ci si trova di fronte a provvedimenti come quelli che ha fatto il governo negli ultimi anni, lei dice va bene tutto. L'ostruzionismo è sacrosanto. Allora, c'è anche chi aveva proposto, sempre il Fatto Quotidiano, l'Aventino, non è che aveva detto l'Aventino, abbandonate il Parlamento, care opposizioni. Qui ai nostri microfoni Dario Franceschini ha detto no, c'è un unico precedente, l'Aventino, sappiamo com'è finita, è una proposta irricevibile. Però Straquadagno, che pensa? Sono mosse disperate di tentare di raccogliere l'attenzione, oppure sono mosse anche temibili, prevedibili, quelle di ostruzionismi? Al di là degli svarioni del professor Pardi, che ha attribuito a Violante la responsabilità della modifica del regolamento del Senato, quando Violante è stato Presidente della Camera e non è mai stato senatore, ma non mi interessa tanto entrare nelle strategie dell'opposizione, l'opposizione faccia quello che crede. Quello che mi colpisce di questo appello è la sua filosofia autoritaria e giacobina. Cioè, di fronte al fatto che al governo non ci sono quelli che piacciono a me, allora bisogna bloccare tutto e bisogna impedire che la democrazia funzioni. Perché la democrazia va bene se comando io. Se non comando io, la democrazia non è democratica. Questo è il concetto di questi nostri oppositori e di chi ha firmato l'appello. Perché vorrei ricordare loro che La Costituzione vigente e i regolamenti che ne discendono e che sono conformi a quella Costituzione è quella che loro sacralizzano tutte le volte che aprono bocca e che vanno in piazza e che agitano come se fosse il Talmud o la Bibbia per i religiosi. Allora si devono chiarire con loro stessi perché se questa Costituzione prevede che la maggioranza degli elettori determina la maggioranza parlamentare, perché non si rassegnano a questo principio democratico e attendono di riconquistare la maggioranza elettorale nel momento in cui ci saranno le elezioni. Tra l'altro devo dire, Straquadagno, perché così funziona nella democrazia politica. Tempi duri per il Parlamento, Straquadagno, cioè adesso l'opposizione dice così, qualcuno dice abbandonate le opposizioni, Berlusconi un giorno sì un giorno no dice noi mandiamo degli ippopotami in Parlamento, di provvedimenti, cioè, no, com'è che mandiamo dei cavalli di razza, ci escono degli ippopotami, cioè qualcuno che dicesse ma il Parlamento è il luogo deputato per fare le leggi, non c'è, cioè tempi durissimi per il Parlamento, Straquadagno. Guadagno, no. Ma il Parlamento è sparare addosso al Parlamento, non lo è so. È il luogo deputato per fare le leggi, non c'è dubbio. Il problema è che i regolamenti parlamentari hanno anche qualche strana aporia, per cui noi abbiamo avuto sempre la maggioranza parlamentare nell'Assemblea. Infatti il governo ha anche sottoposto alla prova della fiducia, l'ha ottenuta il 14 di dicembre, ma abbiamo avuto per una certa fase, non avevamo la maggioranza parlamentare in alcune commissioni a causa dei meccanismi di redistribuzione. Adesso tutto questo è stato sanato e il Parlamento può riprendere a lavorare senza alcuna difficoltà, perché abbiamo la maggioranza parlamentare in tutte le commissioni della Camera. Al Senato questo problema non si è mai posto, al Senato dove è il professor Pardi, questo problema non si è mai posto, per cui quando si dice che il regolamento del Senato impedirebbe l'ostruzionismo, no, l'ostruzionismo è una pratica che è consentita, ma ha un suo contrappeso, che non può impedire alla maggioranza di esercitare le sue prerogative di maggioranza, perché questo non sarebbe un sistema democratico, sarebbe il diritto alla minoranza di porre il veto alla maggioranza. Allora, vediamo su questo, intanto 800240024 ci chiama, la gente vuole capire cos'è questo tipo di ostruzionismo, sentiamo Filippo da Parma, buongiorno Filippo. Buongiorno. Lei che dice? Innanzitutto dico che non sono d'accordo con il quesito, cioè dico no. No, non è... Poi a me piace, io penso, secondo incontro circa dai 30 ai 50 clienti al giorno, incontro spesso sempre questo quesito, vorremmo aprire o fare un partito dei fatti concreti, perché qua si fa sempre un problema di principio. Faccia che ci sono pochi partiti in Italia, manca quello, no, manca il partito. Però è impossibile ogni volta sentire parlare sempre per principio e non sulle cose concrete che servono gli italiani, questa è la cosa assurda. Questo, lo faccia lei, il partito dei fatti concreti. A me piacerebbe sentire, mi fa davvero piacere, quando sento qualche legge, purtroppo ho sentito recentemente su quella che era sulle Alpi italiane, che si sono messi d'accordo per fare una legge a favore, per il beneficio del mercato, come dire, per non so, lo sport invernale e quant'altro. E quindi sì, hanno fatto, lo sentivo in trasmissione questo. Perso. Quello è un fatto concreto. Dice, lei lo metterebbe al primo punto del suo partito dei fatti concreti. Mi farebbe molto piacere sentire la sinistra che partecipa più spesso a leggi concrete che siamo davvero italiani. Va bene, grazie Filippo. Il traffico e riprendiamo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 60% è contro questa idea di un ostruzionismo per bloccare il Parlamento, voglio sentire Massimo da Brescia, buongiorno. Massimo. Buongiorno. Dica. Mi sente? Male, ma dica. Ah, mi avvicino al microfono. Magari. Sente, io sono, brevemente, sono con questo 60%, in quanto ritengo che oltretutto non sia una novità questo contenuto di questa mozione, ma bensì sia una pratica ormai comune da mesi, cioè no, ma qui si tratta, però guardi, si tratta, è una proposta, si tratta di fare un ostruzionismo vero e proprio, cioè bloccare i lavori, che ne so, ogni mezz'ora chiedo il numero legale, faccio delle interrogazioni, delle interpellanze a bruciapelo ai ministri, cosa che il regolamento, cioè proprio fare in modo che non si va avanti di un millimetro, un ostruzionismo scientifico, no, regolamento alla mano, no? Capisci? Ho capito, quindi si intende qualcosa ancora più radicale di quello che certo, tutto bloccato, cioè, non si la, non... Io ripeto, sono col 60%, il suggerimento che posso dare e che penso sia l'aspettativa della gran parte degli italiani razionali è che l'opposizione, al posto di fare ostruzionismo, sì, intervenga e partecipi ai lavori in maniera tale da creare una base di opposizione, perché qua se cade il governo direi che non è l'alternativa, è l'alternativa, non c'è nessun'altra alternativa ancora. Grazie Massimo. Senatore Pardi, la questione mi pare questa. Concretezza, sì, volevo dire, sì, agli ascoltatori, lei lo saprà già senz'altro, un piccolo esempio della fisiologia interna dell'aula. Noi spesso ci accorgiamo che dentro le leggi del centrodestra ci sono degli errori colossali, proprio errori in sé. Da un certo punto di vista noi potremmo anche dire vabbè, lasciamoglielo l'errore, così poi vengono esposti all'udibrio collettivo, però prevale il senso di responsabilità e allora a quel punto facciamo degli emendamenti per evitare che nella legge ci siano delle cose che danneggiano i cittadini. Tutto questo è il senso della politica, no? il ruolo del parlamentare. Allora, noi facciamo questi emendamenti, allora vuol sapere che cosa succede? La maggioranza ci li boccia tutti regolarmente, poi fa il copia e incolla come si fa col computer, pone la fiducia, ripresenta l'emendamento e lo presenta come se l'avesse fatto lei. Questa è la concretezza, diciamo. E magari poi pone la fiducia, una cosa che hanno sempre fatto tutti i governi più o meno. Quanto a concretezza, volevo dire che le cose concrete che la maggioranza sta facendo sono esemplari. Per esempio, vi parlano di federalismo, ma il federalismo che è passato e sta passando adesso, in Parlamento, contiene un aumento delle tasse di cui prima o poi, anzi più prima che poi... Vabbè, questa è una questione che vedremo. Le proroghe vengono tolti i soldi ai vigili del fuoco e vengono dati ai truffatori delle quote latte. Ho capito, ma Pardi, gli italiani pagano le multe dei, ma lei capisce, 76 che aziende agricole. Quello che sta facendo lei adesso è il ruolo dell'oppositore politico, cioè denunciare delle cose che secondo lei non vanno bene nelle leggi. Ma perché arrivare a bloccare tutto? Cioè, io questo che non capisco. Poi mi faccia fare anche una domanda, mi metto il vestito dell'antipolitico e dico: e bloccate tutto? Che fate? Lo stipendio ve lo tenete o bloccate anche quello nel caso? La domanda è legittima. No, fino a che il Parlamento non è sciolto, la prassi non è... Si tiene lo stipendio, ma non si può rifiutare per legge, quindi... Però diciamo, certo, no, ma è chiaro che una cosa di questo tipo ha solo una funzione provvisoria di stimolo, cioè non è che il cittadino si deve immaginare un Parlamento bloccato, ecco, per esempio, no, come quello belga, che oramai ha superato il record degli 260 giorni senza governo. Lì tra l'altro si vede una cosa curiosissima, che una società, bene o male, non si arresta se il governo non c'è, continua a funzionare come una specie, forse col motore al minimo, però continua a funzionare, in fondo, perfino i litigi che spesso sono trascesi anche in urti terribili tra Fiamminghi e Valloni, tutto sommato in questo momento in un certo senso proprio dal punto di vista diciamo una scelta temporanea, no, sarebbe, no? Straguadagno, ma di fronte a questo io voglio chiedere, straguadagno, domani l'opposizione si alza, se ne vanno tutte tipo Aventino, no? Che succede? Cioè, è uno scenario ipotizzabile, oppure stiamo parlando di fantapolitica, ci stiamo esercitando un po' su proposte un po' così? Sì, stiamo parlando del nulla. Del nulla, bene. Perché non esiste la possibilità tecnica di bloccare il Parlamento, esiste la possibilità tecnica di cercare di ritardare o meno la proposta. Però se uno, prende, si alza, se ne va a tutte le opposizioni, non ci presentiamo più alla seduta e si crea un caso politico non indifferente, cioè non è che uno può far finta di niente, va avanti. Sì, però andrebbe argomentato questo caso politico, cioè dovrebbero spiegare perché i cultori della democrazia dicono che lì non c'è più la democrazia, cioè dovrebbero cercare di spiegarla, perché non è che non si può spiegare, cioè questi signori dicono sempre che Berlusconi è antidemocratico e il regno della democrazia dovrebbe essere il Parlamento, e loro abbandonano il Parlamento, mi sembrano loro gli antidemocratici, è molto semplice, e quindi nel momento in cui scegliessero questa strada, per quanto ci riguarda rimane solo un'opzione, quella di continuare a fare il nostro dovere di parlamentari. Mm. Sentiamo che ne pensa Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io vorrei solo dire basta, veramente, non se ne può più. Allora, la sinistra non è riuscita a vincere le elezioni. Io sono un elettore di destra che sta aspettando una sinistra convincente, perché sì, siccome la destra non mi ha convinto, sto aspettando qualcuno che sia un po' più convincente di quelli che ci sono oggi. Dice basta, basta oggi. Che cosa? Dice basta, che basta a questo modo di fare politica, cioè non riusciamo a vincere, allora cosa facciamo? Ingessiamo tutto. Allora provate a fare delle proposte serie per un paese che ha bisogno, ma davvero bisogno, di una ventata di novità. Basta con questo modo di fare politica. Non so, dall'altra parte c'è anche il tecnico Peter Bescapè che l'applaude, non lo so, applaude il suo intervento. Credo che sia semplicemente il pensiero delle persone di buon senso. Va bene, grazie Stefano. Voglio andare a Prato, da Daniele, così ce la facciamo dare qualche ascoltatore in più. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono favorevole a bloccare i lavori in Parlamento. Perché? Anche se è una cosa impossibile. Perché non è più il nostro Parlamento, ma un votificio occupato dalla politica. Se vuole un beh, ma chi lo decide? Lei? Cioè, da quando si decide che non è più il nostro Parlamento? Cioè, da quando uno si mette a leggere i resoconti parlamentari, le audizioni delle commissioni e vede come la maggioranza, non dico il governo, ma la maggioranza, lo ha occupato. Se vuole le faccio un esempio semplicissimo. Ha occupato. Le faccio un esempio. La legge sull'internazionalizzazione delle imprese. Sì. È uscita come legge 99/09 che introduce tra l'altro anche il nucleare. No, le dico solo questo. All'interno di quella legge c'è una delega che il governo si è data a se stesso. Perché si è data a se stesso? Perché quel disegno di legge è stato firmato da tutti i parlamentari che sono anche tutti i ministri del governo. Ora io non posso spiegarle cos'è una legge delega, però è quando il Parlamento dice al governo sì, guarda, sì, certo. Per farti normare alcune situazioni non ne sono... Mi trovo incapace, ti fai dico di farlo, tu, fai tu. Seguendo dei criteri direttivi. Se quei criteri direttivi se li dà i ministri come parlamentari a se stessi, è chiaro che... Insomma, hanno occupato da questi provvedimenti, si dice che hanno occupato il Parlamento. Scusi, e quindi, se intanto... viaggia tutto con decreti d'emergenza che poi vengono convertiti in legge. Voglio dire, il parlamentare cosa fa? Viene messo lì dalla segreteria di partito, spinge il bottone perché guai ad andare contro. Non è più il nostro Parlamento, non rappresenta noi. Non ma questo è un problema di magari anche di legge elettorale che è stata fatta così, insomma un problema più ampio. Comunque Daniele, grazie per il suo intervento. Allora io ringrazio il senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori e l'onorevole Giorgio Stracquaragno del Popolo della Libertà per essere stati con noi. Continuate a votare su questa idea, bloccare il Parlamento, anche su Facebook. Continua la discussione con il nostro 24 mattino, ci trovate lì su Facebook. E che dire, saluto Peter Bescapè in regia e in redazione Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi. L'appuntamento dando la linea Oscar Giannino è rinnovato a domattina 7:20.